come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Pronti a partire 18:38 con i vostri interventi, naturalmente all'800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Siamo tutti un po' sospesi per questo benedetto lodo Alfano, il lodo Alfano che blocca la politica italiana. Sentiamoci prima i titoli del TG2. A Colleferro, vicino a Roma, gli operai protestano per la chiusura della Alstom e circondano la fabbrica, ma i manager dicono non siamo sotto sequestro. In camera di consiglio i giudici della Corte Costituzionale che devono decidere la legittimità del lodo Alfano, gli avvocati del Premier, è una legge che tutela il diritto della difesa. In un video le prime immagini del fiume di detriti che invade i paesi devastati dall'alluvione a Messina, sempre più difficili le ricerche degli scomparsi. Bertolaso, 10, mancano all'appello. Sarà Topo Gigio, il topo più famoso d'Italia, il testimonial d'eccezione della campagna di comunicazione istituzionale per la prevenzione dell'influenza A. Margherita Hack, credo faccia ancora l'astrofisico, comunque una grande esperta di queste cose, la firma dello scudo fiscale. Cosa dice al Presidente della Repubblica? Mi rivolgo al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Caro Presidente, le avevo già chiesto perché avesse firmato subito il lodo Alfano, chiaramente incostituzionale, e ora torno a chiederle perché ha firmato subito lo scudo fiscale che premia i furbi e umilia i contribuenti onesti. So bene che dopo 30 giorni, se il Parlamento vota nuovamente la stessa legge, lei è comunque obbligato a firmarla. Ma comunque avrebbe dato un segnale forte del suo dissenso e avrebbe perlomeno potuto tentare di far modificare le norme più scandalose. Sono convinta che al suo posto né Pertini né Scalfaro avrebbero firmato. Mi dichiaro d'accordo con Di Pietro, una cittadina che crede ancora che la legge sia uguale per tutti e che chi non paga le tasse è un ladro che ruba ai più poveri. Naturalmente sugli argomenti di Margherita Hack nulla questio. Il punto è un altro, che Napolitano, se non avesse firmato quella legge, sarebbe entrato in pieno nel dibattito politico. Si vuole questo? Non lo so. Intanto sentiamo Studio Aperto. La notizia poco fa, tre manager sequestrati a Colleferro, vicino a Roma. Gli operai li hanno bloccati all'interno della fabbrica a rischio chiusura. A Studio Aperto, uno dei dirigenti, nessuna violenza, stiamo bene. Da poco più di un'ora i giudici della Corte Costituzionale si sono riuniti in Camera di Consiglio per l'attesa pronuncia sul lodo Alfano, gli aggiornamenti in diretta. A 4 giorni dalla tragedia a Messina si cercano ancora i dispersi. Sono 10 i corpi rimasti sotto il fango. A Studio Aperto l'urlo della mamma di Bartolo, trovate mio figlio. Influenza A, entro 2 settimane disponibili i primi vaccini. Parte la campagna di prevenzione del governo con un testimonial d'eccezione, Topo Gigio. Ecco i suoi suggerimenti contro il contagio. C'è il set di Cluny e Sulmona si ferma. Le strade transennate, i cittadini comparse e tutti a caccia della coppia, mentre Giorgio rivela un settimanale sposerei Elisabetta anche stanotte. Cogito ergo Facebook, il social network di internet, ora parla anche latino e così la posta diventa epistole e la home page si chiama Domus. E i ragazzi, intanto già si grida al golpe, il golpe dei lodi, il lodo Mondadori con la sua sentenza di risarcimento nei confronti di Fininvest e il lodo Alfano su cui si sta decidendo. Grillo. Golpe, ma è possibile? Io non riesco a raccapezzarmi. Tutte le volte che Berlusconi fa un discorso pubblico circondato da 20 guardie del corpo e centinaia di carabinieri e poliziotti parla di golpe. D'Alema oggi è preoccupato, bisogna stare pronti. Signori, o le parole non vogliono più dire niente o c'è qualcosa di strano. Ed è una frase di Grillo di giugno, però estremamente attuale nella sua comicità, naturalmente, non perché sia seria. D'altra parte, Matteoli, oggi il ministro Matteoli, parla di un percorso eversivo. Se qualcuno vuole far cadere il governo, non è uno scandalo parlare di percorso eversivo. Chi lavora a far cadere questo governo, non perché non ha più il consenso, ma per altri motivi, sicuramente è un percorso che sarà forte, ma che chiamarlo eversivo non mi scandalizza. E non ci scandalizziamo nemmeno noi, anche se ci stupiamo sempre di più che la politica usi queste parole, golpe, eccetera, eccetera. Salvini, l'amico Salvini della Lega, cosa dice? La teoria del grande vecchio. C'è qualcuno dietro, riprendendo un'intervista di uno dei leader della Lega, Calderoli, credo 2 giorni fa, c'è qualcuno che trama dietro e mette insieme diverse cose, Salvini, non lo so, fate voi. Ora, la mia grande preoccupazione, la preoccupazione della Lega, di Umberto Bossi, che ci sia qualcuno in diversi settori non eletto, non qualcuno eletto perché la sinistra fa il suo mestiere di opposizione. Quello che diceva Calderoli ieri. Ci sia qualcuno che ha interesse a non cambiare, quindi il lodo Alfano, il lodo Mondadori, il lodo Gino, il lodo Pino, il lodo Rino, tutto per bloccare quello che faticosamente stiamo cercando di portare avanti per cambiare il paese. E questo è il problema. C'è qualcuno che vuole bloccare il rinnovamento del paese. 800 24 00 24, c'è la questione della manifestazione. Io spero che i dirigenti del PDL ci ripensino, perché dopo aver criticato la manifestazione sulla libertà di stampa, fare una manifestazione contro non si sa che cosa, per il sostegno a Berlusconi, sentite Cicchitto. Stiamo riflettendo sulla possibilità di una manifestazione politica che mira a dar voce alla maggioranza del popolo italiano che conferma il suo sostegno a questo governo e al presidente Berlusconi. Meno male che ancora stanno riflettendo sulla manifestazione. Tornando agli assenti del Partito Democratico, che oggi vengono processati, tra virgolette, dal partito, durante le votazioni sullo scudo fiscale, c'è da registrare che cosa? Un deputato che si chiama Ileana Argentin, che denuncia quanto segue, ed è interessante, sentite. Io da venerdì che sono mancata al voto, e ciò con una campagna stampa è stato reso pubblico, ho avuto delle minacce e ho subito delle aggressioni verbali e anche fisiche. Questo nella manifestazione della stampa, quando abbiamo fatto sulla libertà di stampa venerdì, ma anche ieri sera, persone che camminando per la strada vicino Piazza Venezia mi hanno preso a calci la carrozzina, quindi voglio dire, delle cose senz'altro poco piacevoli. Vorrei che fosse messa a verbale che io ho consegnato un certificato medico giovedì mattina. Ileana Argentin ha presentato un certificato medico per l'assenza sia sulla prima votazione che su quella finale. Ora, noi abbiamo preso in giro naturalmente gli assenti del Partito Democratico che strillano allo scudo fiscale, contro lo scudo fiscale, e poi si assentano in Parlamento. Non si fa così l'opposizione. Però evidentemente c'è stata una caccia, si è aperta la caccia all'assente, come se fosse un delitto di lesa maestà, un delitto contro l'umanità essere assenti in Parlamento sullo scudo fiscale, e qualcuno ha risposto evidentemente con rabbia e con violenza, come avete sentito durante la manifestazione sulla libertà di stampa. Eccoci alle 18.47 con Valentino che ci chiama da Milano. Buonasera Valentino. Buonasera a voi tutti. Una semplice considerazione, insomma, su quello che sta accadendo, sul dibattito della giornata. Ma è semplicemente scandaloso che il signor Presidente del Consiglio, voglio dire, butti sul terreno della politica fatti suoi personali. Ma che sto signore si discolpi o comunque ne esca dai propri guai. Cosa vuol dire lei, Valentino? Io intendo dire... Entri nel merito, perché si sta discutendo di una cosa molto precisa, cioè il lodo Alfano, scusi, ma ogni tanto ci si confonde tra scudi e lodi. No, giusto, tra scudi e lodi qui, però sono fatti strettamente personali. Gli italiani stanno investendo tempo e denari a favore di una questione privata. E dunque, è il fatto che... cosa bisognerebbe fare secondo lei, Valentino? Ma siamo completamente fuori posto, questa non è una democrazia. Cioè il lodo Alfano va cancellato, lasci perdere la democrazia, è un altro discorso, va cancellato il lodo Alfano, allora, che cosa va fatto? Il lodo Alfano non fa parte di una democrazia moderna, è un semplice avviso, punto. D'accordo. Men che meno lo scudo fiscale, non è una democrazia. Addirittura non fanno parte di una democrazia moderna, lei la mette su questo piano. Secondo me no, perché sono fatti strettamente privati. Cioè non come vengono fatti sia il lodo Alfano con lo scudo fiscale, proprio il fatto di fare uno scudo fiscale e il lodo Alfano, secondo lei non fa parte di una democrazia moderna? Molto semplice il discorso, grazie a tutti. Grazie a lei. Andrea dalla provincia di Lucca, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Dica. Niente, volevo fare una riflessione insieme a lei, e la riflessione mia è questa sullo scudo fiscale. Qui si fa un gran parlare da parte della sinistra di questa legge delinquenziale che è stata fatta, no? Forse è vero, perché moralmente certamente non dà un bel esempio ai lavoratori italiani. Praticamente è come se dicesse: rubate, poi il rimedio si trova. Dunque, lei è d'accordo con Margherita Hack, la cosa che ho letto prima? Sì, indubbiamente. Al di là di questo, dico semplicemente questo: visto che il sinistra fa tanto scalpore, ma poi è d'accordo col grande capo che è Berlusconi, praticamente il discorso è questo: se loro invece di fare questa astensione, questo sciopero di protesta, come hanno chiamato loro, andavano tutti i 280 deputati a votare, la legge non passava. Quindi, al solito, che protesta hanno fatto? Non erano 280, erano meno, naturalmente. Vabbè, però se tutti si mettevano lì e votavano, invece di inveire contro Napolitano, che deve firmare per forza, come lei ha ripetuto più volte... Ma quelli che inveiscono contro Napolitano non sono gli stessi che erano assenti, eh? Sì, va bene, però è uguale. Cioè, no, non è uguale, non è la stessa cosa. Ma Napolitano, come ha detto lei, intanto deve firmare per forza, deve firmare per forza quella legge. Ma certo che deve firmare, non è che può entrare nel merito delle discussioni politiche, deve firmare a meno che non rilevi dei problemi di costituzionalità. Io sto chiedendo semplicemente che protesta è stata quella lì. Di non andare in aula, di venire via dall'aula e non votare. Ma contro. Nessuno è andato fuori dall'aula a non votare, Andrea. C'è stato un problema di assenze, alcune giustificate, altre meno. Vabbè, nessuno è uscito fuori dall'aula. Ma non ci prendiamo in giro tutte le mani. Che vuol dire questione di assenza? Assenza vuol dire che non si sono presentati. Ok, dunque non sono usciti dall'aula. Ma è uguale. No, non è uguale, non è la stessa cosa. No, non è un gioco di parole. Politicamente è molto diverso. La ringrazio. Antonio Gaglione, buonasera. Buonasera. Antonio Gaglione ha 56 anni, è deputato pugliese del Partito Democratico, era del Partito Democratico in realtà, perché è uscito dal gruppo, se non sbaglio, no? Sì. La volevano espellere, lei ha fatto prima, che è successo? Io sono un po' evangelico nelle mie cose, ho saputo dal capogruppo del Partito Democratico che mi voleva espellere e io... Anticipato sotto i sandali. No, il Vangelo che dice: se uno non è gradito in casa, uno sbatte la polvere sotto i sandali e va via. E così faccio io. E lei è il deputato col papillon, in tutte le sue foto ha sempre questo papillon, lo porta anche adesso? No, in questo momento no, ma normalmente lo porto, non uso la cravatta perché è più comodo il papillon. Ma di che colore ce l'ha di solito? No, un po' tutti i colori, ne ho tanti di papillon, ne ho proprio tanti. Senta, ma lei si ricorda, anzi no, ha sentito cosa è successo alla sua collega Ileana Argentin? No. Assente come lei alle votazioni sullo scudo fiscale, è stata, almeno da quello che lei denuncia, aggredita dopo o durante la manifestazione sulla libertà di stampa. Lei ha portato dei certificati medici dicendo che insomma sono assenze giustificate, mi sembra una cosa grave questa, no? Al di là delle discussioni sull'assenza, la presenza, cioè ha avvertito questo clima un po' di odio nei confronti di chi nel Partito Democratico era assente sullo scudo fiscale? Sì, l'ho avvertito, io sono pure dispiaciuto e chiedo scusa ai cittadini, però voglio dire che ci sono 100 deputati più nella maggioranza, si trattava di ritardare un po' la cosa, ma sarebbe passato in ogni caso. Anche con i 20 deputati del PD. Però lei... Anche il presidente D'Alema. Sì, ho capito, ma D'Alema era assente durante la prima votazione. Lei è molto sincero dicendo che non era assente per motivi vari, no, salute. Ero moderatore in un congresso e ho dovuto partecipare a questo congresso che era stato preparato da tanto tempo e giusto in quell'occasione il professore di tutta la nostra vita, diciamo così, dove presentava la storia della cardiologia pugliese, deve essere per forza lì. Ah, mi scusi, la storia della cardiologia pugliese è più importante delle votazioni sullo scudo fiscale? Guardi, per uno che ha dedicato la sua intera vita alla cardiologia, c'era il proprio direttore che l'ha fatto diventare cardiologo, per me era un fatto importante, mi scusi. Più dello scudo fiscale? No, non voglio, per carità, una domanda, più dello scudo fiscale? Guardi, lo scudo fiscale sarebbe passato in ogni caso, glielo dico io. Capito, ma la battaglia si fa in Parlamento però, Gaglione, la battaglia si fa in Parlamento, altrimenti uno il ruolo del Parlamento lo esalta, lei invece dice che in Parlamento non si fa niente, è frustrante. Ho letto quel giorno dove ci tenevo a fare questa cosa perché era una cosa che si era programmata da tanto tempo, poi si è deciso all'ultimo momento di votare il venerdì mattina. Ho capito, ripeto, siccome lei dice stare in Parlamento è un lavoro frustrante, una perdita di tempo, lo conferma, sì? Ma lei è uno sincero. Dobbiamo usare ipocrisia, io lo dico senza ipocrisia, che attualmente il lavoro in Parlamento si tratta di votare, si è un numero che bisogna votare come dicono i capi corrente e come dicono i segretari d'aula, e lei lo sa molto bene, credo. No, no, lo so, però lei è pagato anche per quello, per stare in Parlamento, dico. Siamo d'accordo, no, io sono pagato per fare il parlamentare. Anche per, e dunque stare in Parlamento, lei ha assenze del 90%. È uno dei compiti del parlamentare, ma non il solo. Se ritengo che sia più importante dedicarmi al territorio, dedicarmi ai cittadini e fare delle battaglie e non in un Parlamento dove si deve votare, e soprattutto in questo momento in cui c'è una maggioranza di 100 persone che disoverchia, il tuo voto non conta niente. Beh, scusi, se c'è una maggioranza di 100 persone allora dobbiamo chiudere il Parlamento. Dobbiamo chiuderlo, però dobbiamo fare in modo che in Parlamento si discutano di questioni più serie, le riforme istituzionali, la legge elettorale in primis. Ma scusi, lo scudo fiscale è una cosa seria. I decreti che è sicuro che vengono approvati, ma lei pensa veramente che ci possa essere un disegno di legislativo, cioè un disegno legislativo del governo che non possa passare? Ho capito, ma se fosse così allora uno rinuncia alla battaglia parlamentare sulle leggi e rinuncia, punto e basta, insomma, non so se si rende conto. Io non dico che deve rinunciare alla battaglia parlamentare sulle leggi, bisogna impostare un tipo di discorso diverso tra i partiti, pensare alle riforme istituzionali. Ho capito, Gaglione, intanto si sta discutendo di scudo fiscale, lei era assente e dice che era a un convegno sulla cardiologia pugliese, per carità, va benissimo. Non so gli elettori come la prendono, però. Ma gli elettori sa che non decideranno sulla mia elezione, è inutile che ce lo neghiamo. Sulla mia elezione non decideranno gli elettori. E chi decide? Chi fa le liste dei parlamentari. Viva la sincerità. Senta, lei ha il 90,65% di assenze, come si giustifica in Parlamento? Io, la seconda volta che faccio parlamentare, ho trovato un Parlamento notevolmente diverso, dove i parlamentari non devono dare più conto ai cittadini, ma ai capi correnti che poi decideranno. E perché non si dimette allora? Ed è quello che sto pensando di fare. Ah, è possibile che si dimetta da parlamentare? È chiaro che è possibile, vedrò un poco se tutti i partiti si impegnano a cambiare questa legge, io mi impegnerò a cambiarla. Ho capito. Se vedo che non si deve fare niente mi dimetto anche da parlamentare. Vabbè, attendiamo notizie. Grazie Gaglione, buona serata. TG3. La Consulta decide sull'immunità per le alte cariche. Legali di Berlusconi, l'applicazione della legge non è uguale per tutti. Schifani, va rispettata la volontà degli elettori. PDL comunque vada, il governo resta in piedi. Il PD no a pressione sulla Consulta. Napolitano, l'Italia migliore è quella fuori dallo scontro politico. Il presidente elogia volontariato, solidarietà ed impegno civile. La Alstom di Colleferro comunica che è a rischio chiusura. Esplode la protesta degli operai da stamani in fabbrica con i manager dell'azienda. Messina, 25 vittime e 10 dispersi. L'ultimo bilancio della protezione civile. Ora si indaga anche sull'alluvione del 2007. 100 Taliban uccisi sabato scorso nella battaglia più sanguinosa della NATO in Afghanistan. Obama e il Congresso USA decidono nuove strategie. Il sud dell'India devastato da piogge e inondazioni, già 300 i morti e più di 2 milioni gli sfollati, piano di emergenza. Shakira presenta in Italia il nuovo album La Lupa e parla del suo impegno per aiutare in Colombia i bambini più poveri. Vi pongo un semplice quesito: perché, ed è un dato di fatto, intorno alla tragedia di Messina si avverte minore solidarietà rispetto ad altri avvenimenti di questo tipo? Troviamo una risposta in un articolo di questa mattina sul libro di Yuri Maria Prado, che laggiù sia tutto puntualmente illegale, tutto sistematicamente abusivo, tutto perennemente in violazione di ogni regola altrove normalmente rispettata, e che tutto questo continui bellamente senza che cambi mai nulla, senza che l'avvicendamento dell'amministrazione dia neppure la sensazione che i deputati al potere sappiano davvero che cosa fare per cominciare a dare un corso diverso a quella vicenda meridionale, proprio come se fosse convinzione anche loro che davvero non c'è niente da fare, perché le cose laggiù sono destinate a non poter cambiare in nessun modo. E tutto questo è la costellazione di questa particolare inevitabilità che fa reagire il paese, non solo il nord, nel modo che abbiamo visto, cioè dire, non dico con una certa indifferenza, ma certo con lontananza rispetto a quello che è accaduto. È la mia sensazione, vorrei capire se è anche la vostra di sensazione. Andiamo a sentire Sky TG24. Lodo Alfano, la consulenza. consulta in Camera di Consiglio, forse domani la sentenza. L'alluvione di Messina, 25 morti, 10 dispersi, sabato i funerali solenni delle vittime. L'Aquila, 6 mesi fa il terremoto, la rabbia dei parenti degli studenti rimasti uccisi. Influenza A, parte la campagna di informazione del governo con Topo Gigio testimonial. Sicurezza, proposta shock della Lega, arresto e carcere per chi indossa il burka. Colleferro, aziende in crisi, gli operai bloccano la fabbrica. Torino, bimba di 2 anni salvata dal trapianto del fegato del padre. Vertice economico ad Istanbul, violenti scontri tra polizia e manifestanti. Svizzera, Roman Polanski resta in carcere e il giudice gli nega la libertà condizionale. Napoli si cambia, via Donadoni, al suo posto Mazzarri, in arrivo anche Montali. Avete sentito Roman Polanski che resta in carcere, ne parleremo più avanti con un super ospite, un ospite speciale che dice la sua e dirà una cosa anche molto tranchant, molto diretta, che farà discutere, non ci vogliamo sottrarre a questa cosa. L'ospite sarà Tinto Brass. Intanto il carosello in Parlamento, vi faccio riascoltare l'esilarante intervento pochi minuti fa di Antonio Gaglione, il deputato del PD, passato furbescamente nelle ultime ore al gruppo misto per evitare l'espulsione. Gaglione dice: sono passato al gruppo misto perché... evangelico nelle mie cose, ho saputo dal capogruppo del Partito Democratico che mi voleva espellere e io, Vangelo che dice, se uno non è gradito in casa uno sbatte la polvere sotto i sandali e va via, e così faccio io. Meraviglioso, Gaglione, devo dire che molti ascoltatori mi chiamano indignati, io invece ho un senso di simpatia per la sincerità. Non è che si nasconde, per esempio, dov'era durante le votazioni sullo scudo fiscale così vituperato dal Partito Democratico? Ero moderatore in un congresso e ho dovuto partecipare a questo congresso che era stato preparato da tanto tempo e giusto in quell'occasione il professore di tutta la nostra vita, diciamo così, dove presentava la storia della cardiologia pugliese, doveva essere per forza lì. Ah, mi scusi, la storia della cardiologia pugliese è più importante delle votazioni sullo scudo fiscale? Guardi, per uno che ha dedicato la sua intera vita alla cardiologia, c'era il proprio direttore che l'ha fatto diventare cardiologo, per me era un fatto importante, mi scusi. Guardi, lo scudo fiscale sarebbe passato in ogni caso, glielo dico io. Beh, questa teoria è meravigliosa, siccome la maggioranza ha 100 deputati, allora è inutile sulle leggi, bisogna discutere solo di grandi cose, di riforme, dice lui. Spettacolare Gaglione, il deputato adesso del gruppo misto con il papillon, che a un certo punto dice il lavoro di parlamentare è frustrante, ma tanto non sono gli elettori a decidere, perché l'elezione viene decisa dai capi partito e non so gli elettori come la prendono, però. Ma gli elettori sa che non decideranno sulla mia elezione, è inutile che ce lo neghiamo, sulla mia elezione non decideranno gli elettori. E chi decide? Chi fa le liste dei parlamentari. Altra uscita spettacolare sulle dimissioni, perché è l'unico che dice ma forse mi potrei anche dimettere, già sono partite le scommesse, secondo alcuni al 100% non si dimetterà. Io la seconda volta che faccio parlamentare ho trovato un Parlamento notevolmente diverso, dove i parlamentari non devono dare più conto ai cittadini ma ai capi correnti che poi decideranno. E perché non si dimette allora? Ed è quello che sto pensando di fare. Ah, è possibile che si dimetta da parlamentare? È chiaro che è possibile. Vedrò un poco se tutti i partiti si impegnano a cambiare questa legge. Io mi impegnerò a cambiarla. Ho capito. Se vedo che non si deve fare niente, mi dimetto anche da parlamentare. Vabbè, attendiamo notizie. Gaglione, un uomo, un mito direi. 800 24 00 24. La particolare, curiosissima teoria di Matteo Salvini, come sapete, europarlamentare e consigliere comunale della Lega Nord a Milano, il quale dice il lodo Alfano, la vicenda Mondadori, alla gente che io vado a trovare, non so dove, ha detto, in un oratorio a Milano, non gliene frega assolutamente nulla. Sentite. Domenica ho fatto il giro di qualche oratorio di Milano, andando a vedere qualche partitella e parlando con tanta gente. Ne avessi trovato uno di mamma o di papà che mi chiedesse: allora cosa succede sul Lodo Alfano, ma perché la Escort, il Lodo Mondadori? La gente chiede: quando è che diminuiscono le tasse, quando è che riparte l'economia, quando è che c'è più lavoro? Punto. Questa è la teoria di Salvini. Si parla però di golpe, di possibili elezioni, qualcuno dice un governo del presidente Francesco Rutelli. Io questa parola golpe proprio non riesco a metabolizzarla. Golpe? Ma è possibile? Io non riesco a raccapezzarmi. Tutte le volte che Berlusconi fa un discorso pubblico circondato da 20 guardie del corpo e centinaia di carabinieri e poliziotti parla di golpe. D'Alema oggi è preoccupato, bisogna stare pronti. Signori, o le parole non vogliono più dire niente o c'è qualcosa di strano. Io non so se ci sia qualcosa di strano, cosa si sta preparando. Intanto la sentenza sul Lodo Alfano è stata rinviata almeno a domani, non si sa, potrebbe arrivare anche entro sabato. La Camera di Consiglio è stata aggiornata. Vi faccio ascoltare questa storia assurda della manifestazione del PDL. Il PDL vorrebbe manifestare ancora, c'è una fase di riflessione per fortuna, vorrebbe manifestare, non si sa su che cosa, in sostegno, dice Cicchitto Sentireda, al Presidente del Consiglio. Una manifestazione di sostegno al Presidente del Consiglio. Vabbè. Stiamo riflettendo sulla possibilità di una manifestazione politica che mira a dar voce alla maggioranza del popolo italiano che conferma il suo sostegno a questo governo e al presidente Berlusconi. Saverio da Bari, proprio dalla Puglia, buonasera. Sì, buonasera, Salvatore Cruciani. Condivido con lei l'apprezzamento della sincerità del deputato Gaglione, ma solo quella. Diciamo che da questo punto di vista lui ha dimostrato come effettivamente tanta gente che si preoccupa di portare avanti dei discorsi seri, la gente manifesta, tutto quanto, ma alla fine lui ha sputato nel piatto in cui mangia. Poteva dimettersi, anzi, poteva non candidarsi proprio. Poteva continuare a fare il cardiologo e nessuno gli avrebbe detto niente, avrebbe apprezzato sicuramente questo tipo di attività che svolge. Spero bene per lui, per i pazienti. 90% di assenza in Parlamento. D'accordo. Enzo, sempre da Bari, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, buonasera a tutti gli ascoltatori. Volevo riflettere con lei e con gli ascoltatori su un episodio, o meglio diversi episodi, cioè l'atteggiamento di alcuni uomini politici di questi giorni. È possibile ascoltare le dichiarazioni dei vari Bersani, Gaglioni, addirittura del presidente Napolitano e rimanere indifferenti? Io rabbrividisco nel percepire una rassegnazione così acuta. Credo che cozzi in maniera profonda con il principio della sana opposizione. Mi scusi, che c'entra Napolitano? Però mica Napolitano fa parte dell'opposizione. Non fa parte dell'opposizione, ma ha fatto una dichiarazione l'altro giorno per quanto riguarda la firma della legge sullo scudo fiscale, anche lui con una dichiarazione di quasi rassegnazione. Cioè, questa storia... Ho capito, ma Napolitano non deve opporsi al governo, eh? No, non deve opporsi al governo. Cioè, non è che il mestiere di Napolitano è fare l'oppositore del governo in quanto Presidente della Repubblica. Lei sta confondendo un po' i piani. Cioè, cos'è che non le sta bene della risposta data da Napolitano sulla questione dello scudo fiscale? Ma non è che deve essere rassegnato o meno rassegnato Napolitano, abbia pazienza. Altrimenti l'avrei firmata in seconda battuta. Ma quella era una spiegazione tecnica, era una spiegazione, poi la si può interpretare in tanti modi, lei la interpreta così come rassegnazione di Napolitano, io la interpreto siccome ho stima del Presidente della Repubblica, la interpreto in un altro modo. Mi sembra difficile che Napolitano volesse dire fa schifo questa legge, però la devo firmare per forza. Lei l'ha interpretata così? No, la critica non verteva sul Presidente Napolitano. Era un altro episodio che è andato a rinforzare quelli che lei più volte ha mandato in onda, non ultimo Gaglione poco fa. Ho capito, ma Gaglione, D'Alema o Bersani assenti alle votazioni non è la stessa cosa di Napolitano? No, io parlo delle dichiarazioni, non parlo dell'assenza. L'assenza la posso anche comprendere, forse non la giustifico ma la comprendo, ma il problema è legato alla dichiarazione. cioè Bersani ha detto che se l'avrebbero riproposta sarebbe passata. Sì. Gaglione ha detto i parlamentari del centrodestra sono centro di più. Allora a questo punto che facciamo? Niente opposizione? No, ma Enzo, lei su questo ha perfettamente ragione. Chiudiamo il Parlamento. Paolo da Brescia. Buonasera Paolo, grazie Enzo. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Volevo intervenire su Gaglione e sullo scudo fiscale. Allora Gaglione, lei ha detto Aurora che le genera simpatia, a me sinceramente genera conati di vomito, però vabbè. E addirittura conati di vomito, non esageriamo. No, perché poi dai conati di vomito, scusi Paolo, si passa facilmente alla violenza che ha subito Ileana Argentin, capito? Quella deputata del Partito Democratico aggredita perché non era presente, pur col certificato meno. Allora il conato di vomito è il mio, non è che io vomito addosso a Gaglione, a me fa venire conati di vomito. No, a parte ci mancherebbe altro. Rimane tutto all'interno mio, al massimo butto fuori qualcosa qui sulla strada. No, volevo intervenire sul discorso dello scudo fiscale, perché le osservazioni che ha fatto Margherita Hack sono condivisibili fino a un certo punto, nel senso che non il Presidente della Repubblica, in questo caso Napolitano, non doveva uscire con la frase che citava Aurora il precedente ascoltatore, perché effettivamente ha dato un segnale di rassegnazione, ma quello che dico io è che si mette in evidenza l'inadeguatezza istituzionale della figura del Presidente della Repubblica in questo momento nel nostro sistema. Un Presidente della Repubblica che dal momento in cui viene eletto, che sembra quasi un rituale massonico perché non c'è nessuna candidatura formale e si accordano tra i partiti. Il rituale massonico, Paolo, che significa rituale massonico? È un rito, magari vetusto, eccetera, ma non è che c'entra il rito massonico, mi scusi. Ma non perché i riti massonici siano per forza qualcosa di negativo, ma non c'entra nulla. No, ma non è che non c'entra. Allora, se siamo in democrazia e c'è trasparenza, io capisco che forse 50 anni fa, quando è stata fondata la Repubblica, poteva andar bene un sistema elettorale siffatto dell'uomo che rappresenta poi l'unità nazionale. D'accordo, ma adesso perché stiamo parlando dell'elezione del Presidente della Repubblica? No, mi scusi. Le sto dicendo dell'inadeguatezza della figura del Presidente della Ma non Repubblica. Mi pare per niente inadeguato il Presidente. Non la figura, non Napolitano in se stesso, la figura del Presidente della Repubblica. Vabbè, dipende da chi la incarna naturalmente, l'autorevolezza o meno. Non è certo, che... Allora forse non sarebbe il caso di rivedere i poteri che ha, effettivi, forse magari fare una Repubblica presidenziale. Non lo so, quello è un altro discorso. Dice, lei nel suo intervento d'esordio stasera ha detto il presidente Napolitano a questo punto ha firmato perché altrimenti sarebbe sceso nell'agone politico, nella contesa politica. Vabbè, poteva scenderci e poi ritirarsi fuori quando la seconda volta veniva. Ma no, ma Paolo, il presidente può firmare o non firmare, poi naturalmente dipende anche dalle sensibilità, qualche volta certo. Ha travalicato i suoi compiti, poi sono delle cose, insomma, sono delle prassi che qualche volta subiscono degli strappi, però insomma doveva avere una motivazione molto forte dal punto di vista costituzionale per non firmare, ha capito? Insomma, non è possibile attaccare il Presidente della Repubblica su questo punto, è molto difficile, si fa solamente demagogia. Ma non so se si faccia demagogia, perché lei adesso ha detto, per esempio, il Presidente della Repubblica deve avere una certa personalità. E allora anche lei ammette che ci sono stati Presidenti della Repubblica con diversa personalità. No, ma certo, Paolo, che c'entra? Siccome no, non è che c'entra, non mi dica che c'entra, perché dice sempre che c'entra, che ci azzecca, mi sembra. No. Ma quello che voglio dire io è che è una figura che da un punto di vista istituzionale va rivista. Io non sto criticando Napolitano, bravissima persona, per carità di Dio, però è una figura istituzionale che va rivista. Punto, basta. Vabbè Paolo, di questo però si discute da tantissimi anni. La ringrazio. Salvo, provincia di Catania, buonasera. Salvo non c'è più, lo riprendiamo tra poco. Gianfranco da Olbia. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Io volevo parlare un po' del lodo Alfano e poi, visto che è tanto tempo che non le tirano pietre, alla fine le tirerò un sassetto. Meno male. Perché sono sempre d'accordo con lei e quindi non le posso tirare pietre. Va bene, vanno bene anche i sassolini. Probabilmente lei in crisi di astinenza. No, allora, di Sassi, parlo, crisi di astinenza da Sassi. Vorrei dire che tutti quelli che parlano di articolo della Costituzione sulla uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, nella faccenda non c'entra niente, perché la legge può anche distinguere tra categorie. Cioè, la legge dice non dice Berlusconi non può essere, dice i presidenti del Consiglio durante il loro mandato non possono essere sottoposti. Ma questo è chiaro, Gianfranco. E distingue, come dice per esempio i muratori devono portare le scarpe. No, ho capito Gianfranco, però lei sta dicendo una cosa ovvia, è evidente che un provvedimento come quello là non poteva essere esplicitamente targato su Berlusconi, poi nei fatti è così, però si è voluta proteggere in questa fase eccetera la figura del Presidente del Consiglio perché poteva essere a rischio per la vicenda Mills, questo è talmente evidente Gianfranco, non si può negare però. In un paese come l'Italia, dove un giudice che si è speso nei confronti di un deputato con parole, opere, scritti, omissioni, non sente il bisogno di rinunciare a quell'incarico, ed il Consiglio Superiore della Magistratura non sente il bisogno di sostituirlo, il Lodo Alfano è indispensabile. Vabbè, che sia indispensabile o meno dal punto di vista politico, questa è una sua idea, è rispettabile, per carità. Insomma, anch'io penso che andava fatto, però se a un certo punto la Corte Costituzionale dice che non va bene, qui si apre un problema politico grosso, non si può negare questo qua. La ringrazio Gianfranco, eccoci qui 19:44 con Tinto Brass, buonasera. Buonasera. Come sta? Come sta? Bene, bene, bene. Si prepara alla serata, alla cena o no? Cena sì, lei? Certo, tra poco andrò a cena. A che ora cena di solito lei? Quindi 8:30. Presto insomma. Sono no? Sono di gusti contadini. Quando si cenava anche prima in realtà delle 8:30. Senta, lo poi, sa che poi c'è, però si ha davanti una lunga notte in compenso. Lunga notte per che cosa? Per che cosa? Cosa fa lei la notte? Beh, insomma, di solito dormo, sbaglio? Io mi capita di violentare delle minori. Grazie, non andiamo subito. Sta scherzando, naturalmente. Non andiamo subito al sodo. Volevo arrivarci. Volevo arrivarci più dolcemente. Col burro. Vabbè, volevo arrivarci più dolcemente, lasciamo perdere. E allora le dico una cosa. Lo sa che oggi Polanski poteva uscire dal carcere, ma in realtà. È stato deciso di tenerlo dentro per quella storia. Doveva avere arresti domiciliari, doveva avere una casa là in Svizzera, no? Sì, sì, insomma, i giudici hanno rifiutato questa cosa qui, dunque resta in carcere in Svizzera. Lei l'ha difeso l'altra sera da Chiambretti. Certo, e lo torno a difendere anche stasera se le vuoi sapere. Ma il motivo per cui l'ho difeso è perché tanto come era stato presentato come uno che aveva seviziato una minorenne, ed è assolutamente un linguaggio improprio, perché non c'è stata, secondo me, potrò sbagliare, ma ho anch'io le mie esperienze in merito. Non ha seviziato nessuno, non c'è stata nessuna violenza. È stata una serata divertente in cui tutti e due si sono divertiti. Ma questa presunzione di innocenza attaccata alla minore età è un falso storico. Però mi scusi, adesso andiamo sul falso storico. Brass, lì c'è una sentenza che può essere contestata. Ma quante volte ho contestato i giudizi della magistratura che consideravano osceni o pornografici i miei film? Ci sono delle sentenze emanate in base a delle norme che non corrispondono alla verità, a quello che è il comune sentire. Secondo lei una ragazza di 13 anni può essere consapevole di quello che fa, secondo tutta la giurisprudenza, mondiale, ma come no? Ma sul piano sessuale è consapevolissimo, è molto consapevole, a parte che queste sono questioni che poi cambiano secondo i periodi storici, lasciamo perdere certi riferimenti illustri, però insomma delle volte appunto sì, quello siamo d'accordo, diciamo, sulla sessualità si può discutere, però cioè, le leggi prevedono, come lei sa bene, ma le leggi sono anche delle leggi sbagliate, quella della presunzione dell'innocenza solo perché una minorenne, quando le condizioni poi obiettive sono diverse. Cosa è successo secondo me quella sera? La ragazzina che era già stata fotografata a seno nudo a Polanski ha accettato l'invito di andare una sera per questa casa vuota dove non c'era il padrone di casa per passare una bella simpatica serata. Hanno fatto il bagno in piscina e poi c'è stato questo genio. Allora, il fatto della sodomizzazione, mi ascolti bene, tanto non è possibile violentare una sodomizzandola, se non ci sta, quello è matematicamente impossibile. Vabbè, adesso entriamo in questi dettagli, no, ma lì già lì... delle situazioni così consenzienti serve con la vasellina. Ho capito, Brass, a te si fermi un attimo, perché prendiamo una china. Beh, un po'. Insomma, no, no, ma non si può entrare in questi dettagli, perché il punto. Ma no, dirò di più, proprio perché. Cosa è successo? Mi è capitato anche a me. No, ho capito, ma le situazioni sono diverse le une dalle altre, no? Non sono tutte uguali le situazioni. Le spiego, a quell'epoca, quando c'era il mito della verginità, sì, le ragazze ti davano molto più volentieri il culo. No, fermi tutti, no. Ma qui il punto non è questo, non stiamo facendo la ricostruzione di quello che è accaduto, perché lei sa che ci sono le minute del processo che parlano di cose diverse, di cose anche di particolari, anche pubblicati sui giornali americani. Però io voglio chiedere una cosa, Brass, come si fa in generale, siccome pare che ci sia stata violenza, come si fa a giustificare una violenza nei confronti di una ragazza di 13 anni? Mi perdoni, scusi, con tutta, si possono fare tutte le riflessioni filosofiche che lei vuole sul sesso, i 13 anni, i 14, 15. Non credo che sia stata violenza, e poi comunque non accetto questa presunzione di innocenza ai 13 anni di età. Vedi, guarda caso che si vuole demonizzare, come sempre, criminalizzare la sessualità, perché non viene mica accusato Polanski di averle dato da fumare della cocaina, no, viene accusato di un reato sessuale, perché è quello che si vuole mettere sotto accusa. Non, anche là aveva. Sì, secondo lei l'ipocrisia. Bravo. Però, Brass, un'altra cosa, perché ci sono i registi come lei, e lei fa un altro discorso rispetto ad altri, che dicono, beh, insomma, 76 anni, in fin dei conti, poi lei l'ha perdonato, eccetera. No, non faccio questo discorso. Io guardo, analizzo il fatto di sé, certo tengo presente chi è Polanski, che è uno che è stato perseguitato tutta la vita, non può diventare un persecutore, secondo me, psicologicamente, a parte il fatto che poi anche le sue opere testimoniano una sensibilità del genere, non è questo. C'è la mia musa, che è una psicanalista e che ha dissentito dalle mie opinioni. Dice, no, proprio la psicanalisi dice che uno che è stato perseguitato diventa persecutore. E beh, allora la psicanalisi è una gran merda se dice cose del genere, perché non ci credo affatto. Vabbè, lei non ci crede, i giudici ci hanno creduto. Ma però, i giudici sono quegli stessi che hanno detto, gli diamo 100 anni, a meno che non accetti che ci siano le telecamere in aula. Ma te pare che sia un discorso. Vabbè, questo è un altro discorso su cui si può discutere. La pubblicità sempre. Questo può darsi, non c'è dubbio. Su un personaggio noto. Lui è scappato però. Per fortuna, è riuscito a scappare, per fortuna. Bravo. Lo sa che in Italia dei giornali fanno degli appelli perché lui paghi, perché la cosa non resta impunita, perché sia estradato negli Stati Uniti? Ma perché sono condizionati appunto da messaggi per cui automaticamente si presume che guardi, quelli stessi che fanno questi appelli in Francia, per esempio, adesso hanno chiesto una derubricazione sul reato della violenza stradale, perché siccome questi che fanno, distruggono le vetrine, le cose, le banlieue, hanno la legge francese dice che se hanno meno di 14 anni o 14 anni, fino a 14 anni non possono essere puniti. Allora, per poterli punire, hanno derubricato, dai 14 sono passati ai 13. Ecco che vede che vogliono punire, non è che l'innocenza. Ma in questo caso però i colpevoli non è che sono i 13 anni e i 14 anni, sono quelli che vanno con i 13 anni e i 14 anni in questo caso. Vabbè, Brass, la ringrazio molto, passi una buona serata. Grazie. 19:51, questa è la posizione, naturalmente dissento totalmente da quello che ha detto Dinto Brass, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, perché... sapete come la penso su questa vicenda, al di là delle espressioni crude utilizzate da Brass, ma Tinto Brass è Tinto Brass, quando lo si chiama bisogna aspettarsi anche questo. Dove andiamo? Andiamo a Corrado, Verona, buonasera. Buonasera a lei, sono un leghista puro sangue. Leghista puro sangue, c'è bisogno di dirlo per forza, vabbè, lo dica, va bene, non c'è problema. Perché qua da noi non viviamo questa paura della democrazia, anzi, adesso ho sentito lì alla sua trasmissione di quella deputata che è stata attaccata perché non ha partecipato alla votazione. Ma scherziamo? Una deputata eletta da cittadini italiani che non può esprimere il sì o il no, non vuole andare a votare o è ammalata, perché viene attaccata dai suoi stessi elettori, magari. E dopo la sentiremo, Corrado, vogliamo questo farci raccontare problema. Quello che è successo. Questo è il problema, signor Cruciani. Cioè, qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è un parlamentare, giusto? È eletto regolarmente, mi sembra. Sì. E non può andare a non votare o perché è malato o perché non lo vuole, non mi interessa questa cosa. Leo Gullotta ha fatto un cinema, un film sulle foibe, è stato massacrato. Vabbè, questo è un altro discorso, però. No, ma è quello lì, è lì la democrazia dove viene a mancare, è lì il frutto. Cioè c'è troppa violenza, dici. Ma no, violenza, c'è troppo odio. No, allora io voto lei perché mi rappresenti così, se non fa perché lei trova sbagliato quello che vota, io devo tirare un sasso per forza. Lei, se io voto lei perché vado in Parlamento, perché mi fido di lei, se non va a votare o se va a votare, vuol dire che riterrà lei opportuno votare o no. Non perché lei vota sì o no, io poi mi devo usare violenza su di lei. No, ma questo Corrado, naturalmente è sempre da criticare l'uso della violenza. Dopo la sentiremo, ripeti, Ileana Argentine che contesta questa cosa. Noi abbiamo un po' giocato nei giorni scorsi giocato, ma non troppo, sulle assenze dei deputati del Partito Democratico, pur dicendo che naturalmente la legge è stata approvata con i voti della maggioranza, ci mancherebbe altro, però con le assenze in alcuni casi determinanti dell'opposizione, senza per questo giustificare in alcun modo quelli che aggrediscono gli assenti. Corrado, la ringrazio. Dove andiamo? A Napoli, Roberto. Buonasera. Buonasera, dica. Voglio fare un intervento per quanto riguarda la manifestazione ventilata dal Partito della Libertà, dal Popolo della Libertà a favore di Berlusconi, e volevo far notare che manifestazioni del genere, a mia conoscenza, non avvengono mai nei paesi democratici. In Inghilterra, negli Stati Uniti, in Germania non ho mai sentito di una manifestazione fatta a favore del governo. Queste cose avvengono solo o in paesi dichiaratamente dittatoriali, a Cuba, in Russia, nell'Italia fascista, nella Germania di Hitler, o nei paesi sudamericani sono avvenute queste manifestazioni, ma mai in un paese veramente democratico. Questo volevo far notare a Cecchitto e a vari sostenitori di Berlusconi. Roberto, mi sembrerebbe una cosa veramente grave. Grave non lo so, però dopo questo intervento, col sorriso sulle labbra, la metterò dentro la rubrichina Radio Londra, perché non è così, evidentemente. E però lei ha ragione di fondo sul fatto che è assurdo organizzare una manifestazione a sostegno del governo, non significa nulla dopo la sentenza Mondadori e forse dopo il lodo Alfano, non lo so, mi sembra una cosa fuori dal mondo. E infatti lo stesso Cicchitto, nella cosa che abbiamo ascoltato prima, dice: ci stiamo riflettendo. Ecco, bene, rifletteteci molto e anche in maniera approfondita. Giuseppe da Udine, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Niente, io volevo l'ascolto di sera e mi meraviglio sempre di più di questa italietta piccola piccola. Volevo fare però una riflessione sul terremoto dell'Aquila. Noi friulani credevamo di essere l'esempio di questa ricostruzione, no? E voglio solo sottolineare che dopo sei mesi noi non avevamo neanche la legge sulla ricostruzione. E sento dai miei compatrioti dell'Aquila che si lamentano perché qualcuno, sia esso Presidente del Consiglio o la Regione Autonoma di Trento che ha fornito il supporto, gli hanno dato le case arredate, lenzuola, frigo e quant'altro. Noi non abbiamo avuto niente di questo genere, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto e crediamo di essere di esempio in questa roba qua. Sì, vabbè, sono passati anche degli anni, per fortuna, no? Le cose cambiano. Sono passati degli anni da quell'esperienza, le cose cambiano in meglio forse, o in peggio, dipende. Sì, le cose cambiano, ma allora perché lamentarsi? Perché fare manifestazioni? Vabbè, nessuno ha fatto manifestazioni sulla questione del terremoto. Oddio, qualche piccola cosa c'è stata, ma non è che le manifestazioni si fa sulla inefficienza del governo sul terremoto, che evidentemente non c'è stata finora. Per cui volevo cioè, non è che la manifestazione sulla libertà di stampa ha a che fare col terremoto, se lei si riferisce a quello. No, assolutamente no. E allora? Però ci sono dei comitati spontanei che sorgono perché ci devono dare le case. Sì, ma quello è normale, fa parte come dire, della reazione che ogni terremoto, ogni tragedia si porta dietro. Eccoci, 20 in punto, titolo del TG5. Domani la sentenza della Corte Costituzionale sul lodo Alfano, la legge che sospende i processi per le 4 più alte cariche dello Stato. La difesa non è immunità. 25 morti e 10 dispersi, il bilancio del nubifragio di Messina. Per Bertolaso non c'è più nessuna speranza di ritrovare qualcuno ancora in vita. Stupri, la rabbia delle famiglie delle vittime di ieri e di oggi. Troppo miti le pene per i violentatori. Nuovo caso, ragazza violentata su un treno in Costa Azzurra. Topo Gigio a Palazzo Chigi con Fazio e Bonaiuti per la campagna di prevenzione contro l'influenza A. Da lunedì il vaccino è a disposizione delle regioni. Decine di migliaia di indirizzi di posta elettronica, Hotmail, Gmail e Yahoo attaccati da pirati informatici. Utenti convinti con l'inganno a rivelare i loro dati personali. Va bene, andiamo subito a sentire il TG1, poi torniamo da Giuseppe. Lodo Alfano, consulta riunita anche domani per decidere la costituzionalità della legge. I legali del Premier, non è immunità. Al TG1 il documento che già nel 95 segnalava il rischio frane a Giampilieri e in esclusiva le immagini dei primi soccorsi in mare. Bertolaso dà il bilancio definitivo della tragedia, 25 morti, 10 dispersi, ma nessuna speranza di ritrovarli in vita. Scontri tra polizia e studenti a Istanbul, arresti e lacrimogeni per disperdere le proteste contro il Fondo Monetario Internazionale. Influenza A, la vaccinazione partirà tra 2 settimane, presentati gli spot per la prevenzione, protagonista Topo Gigio. Win for Life, boom di giocate, 52 milioni di euro raccolti nella prima settimana, 20 vincitori della rendita ventennale. Va bene, andiamo allora a concludere con Giuseppe da Udine, il suo ragionamento sul terremoto, le polemiche che in realtà non ci sono. Non ci sono. Io volevo comunque esprimere la mia solidarietà alle popolazioni terremotate. Va bene, poi? Perché noi l'abbiamo provata sulla nostra pelle, ma voglio solo dire che io ho passato i primi 20 giorni in macchina, poi in tenda, poi nella roulotte, poi sfollato a Bibione, che è vicino a una località balneare, e noi abbiamo avuto la legge per la ricostruzione nel 77. Va bene Giuseppe, lei fa bene a ricordarci queste cose, però non si possono fare termini di paragone tra due esperienze così lontane nel tempo. Speriamo di aver appreso qualcosa, no, dopo oltre 30 anni, o sbaglio? In casa dopo 6 mesi, arredata. Va bene, Giuseppe. La ringrazio. Salvo, provincia di Catania, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani, complimenti per la trasmissione. Ti sente? La sento. Niente, volevo intervenire per il discorso che c'è stato in Sicilia, lì in provincia di Messina. Che vuole dire? Niente, ci volevo dire soltanto che io sono un camionista, perciò sono sempre in giro e vedo tutto quello che più o meno succede. Cioè, è già questo discorso. Però Salvo, la sentiamo malissimo, lo so che lei è sul camion, ma la sentiamo veramente male, cercheremo di ricollegarci di nuovo con lei. Piero da Firenze, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, piacere sentirla finalmente dopo lunga attesa, ma non lunga attesa stasera, altre volte che avevo chiamato. No, la mia telefonata era proprio di nuovo sulla questione Roman Polanski e l'intervista, diciamo, con il regista Tinto Brass. Per carità, tutto può essere lecito, ma come lei ha giustamente sottolineato, quando Tinto Brass è entrato in certi dettagli, lo ha fermato, lo ha stoppato. E dicevo prima alla sua collaboratrice... Io non stoppo mai nessuno, però insomma quando iniziano a fare certe descrizioni... Esatto, e questo mi è piaciuto molto da parte sua. Infatti dicevo prima alla signorina, alla collaboratrice, che volevo intervenire proprio per dire questa questione, questa faccenda di Polanski la dobbiamo assolutamente rimuovere. Cancellarla dalla nostra mente, perché è stato veramente, se posso dirlo anche per radio, uno schifo. Cosa è stato uno schifo? La vicenda della vicenda Polanski con la tredicenne, eccetera. Ma perché bisogna rimuovere? È un argomento ancora caldo, Polanski è ancora in carcere. Rabbia, però, con molta rabbia, cioè, forse sono traditorio, forse sono anche un po' emozionato, ma mi ha veramente... Piero, no, si calmi, non si preoccupi. Sì. Lei le ha fatto schifo questa vicenda perché c'è stata la violenza nei confronti di una tredicenne, questo immagino. No? Però non possiamo rimuovere questa storia, è una storia che bisogna seguire comunque, no? Nella sua evoluzione. La dobbiamo tenere in mente, ma come sempre, anche ha detto lei, perché lei mi pare che fosse contrario, no, a questa faccenda, cioè l'appello dei registi, degli intellettuali, Polanski, grande, per carità, tutto il rispetto per Roman Polanski, l'ho visto anch'io i suoi film, ma insomma, vecchie questioni, Sharon Tate, eccetera, eccetera, ora non voglio tornare troppo indietro, forse ho parlato anche troppo, però ecco, mi faceva piacere questa sottolineatura e la ringrazio di aver visto. Grazie a lei, Piero da Chieti, buonasera. Cruciani. Dica. Vorrei tornare un attimino sul senatore Gaglione dell'intervento. Ah, spettacolare, datemi Gaglione, vi prego, Gaglione, voglio Gaglione, datemelo. Allora, la seconda volta che faccio parlamentare, ho trovato un Parlamento notevolmente diverso dove i parlamentari non devono dare più conto ai cittadini, ma ai capi correnti che poi decideranno. E perché non si dimette allora? Ed è quello che sto pensando di fare. Ah, è possibile che si dimetta da parlamentare? È chiaro che è possibile. Vedrò un poco se tutti i partiti si impegnano a cambiare questa legge. Io mi impegnerò a cambiarla. Ho capito. Se vedo che non si deve fare niente, mi dimetto anche da parlamentare. Vabbè, attendiamo notizie. La cosa incredibile è che ha detto: mi dimetto, però aspetto di vedere se si cambia la legge elettorale. Ma insomma, vabbè, io punto sul scommetto sulla che non si dimette. Comunque. Lei punta su questo? Assolutamente. Appunto, io l'unica. Allora, cominciamo a prendere scommessa. Allora, lei, Piero, dice non si dimetterà. Altri ascoltatori hanno. Non rinuncerà mai allo stipendio che prendono tranquillamente senza preoccuparsi se andare o non andare in aula a votare. Come si votare. Dice in termine tecnico, quotare, no? Dunque, le quote danno direi a 10 le dimissioni di Gaglione entro 6 mesi e direi le mancate giochiamo sul sicuro. Le mancate sicuro. Dimissioni a quanto le vogliamo dare? No, vinco sicuro. A quanto le vogliamo dare? Sotto la darà a 100, ma la daranno a 0, cioè a 1 a 1. Non di più. No, a 1 e poi a 1 addirittura. Niente, cioè, non a 1 è tanto, non è poco. No, 1 a 1 nel senso che appunto 1 vinco 1. Cioè, vince 1 e no, vince 1 no, quello non è possibile. Appunto, non, cioè, perché tutti punteranno sulla non dimissione. Comunque, niente, il discorso è che lei è l'unica persona che può aiutarci per promuovere, promulgare un referendum per cercare di diminuire il numero di questi parlamentari che veramente. Ma questo lo farei volentieri. Appunto, allora, anche perché sono sicuro che sarà uno dei pochi referendum tra gli ultimi che si raggiungerà il quorum. Non credo si possa fare, Piero, ci vuole una riforma costituzionale. Ci dia una mano d'aiuto a noi cittadini che purtroppo dalla mattina ci svegliamo da presto fino alla sera e facciamo il nostro dovere, quello tranquillamente può decidere cosa fare o non fare, se andare a lavorare o non andare a lavorare. Va bene, grazie. Grazie a lei, buonasera. Paolo da Treviso, buonasera, poi sentiamo la 7. Paolo. Buonasera, è un piacere sentirla, grazie. La sento sempre per radio e ho avuto anche la fortuna di parlarle stasera. Io non voglio dirle, farle complimenti per la trasmissione, perché la trasmissione comunque mi va bene. Così ecco, andiamo al sodo. Allora. Sì, no, io lei non avrà bisogno delle mie... che io sia d'accordo con lei, però sono completamente d'accordo con lei per quanto ha trattato la vicenda del regista Tinto Brass, per quello che ha detto prima, perché io la pensavo esattamente come lei, anche che ogni testa nel mondo potrebbe immaginarsi come si sono svolti i fatti, cioè non mi pare che il pulpito poi di Tinto Brass sia insomma. No, ma il problema non è la ragazza di 13 anni consenziente, secondo questo ragionamento è il fatto che aveva 13 anni, punto e basta. Però evidentemente Tinto Brass la pensa in maniera diversa, non sa che ci sono dei reati veri e propri su queste cose qui. Como, Maurizio, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Io chiamavo per commentare la vicenda della sentenza Mondadori, però sentendo l'intervento di Tinto Brass mi sono venuti i brividi, quindi ha attirato la mia attenzione. Fermo restando che ognuno può dire la propria, a me mette i brividi sentire da qualcuno che una bambina di 13 anni può essere libera, o meglio, un adulto può essere libero e sentirsi... così non colpito dalla legge avendo rapporti di questo tipo. Io ho due figlie femmine molto molto piccole e le dico mi sono venuti i brividi, così questo è un commento su quanto ho sentito. Invece riguardo alla sentenza Mondadori, trovo sconvolgente che diventi una questione politica. Alla base di questa sentenza c'è una vicenda lunghissima di sentenze comprate al terzo grado di giudizio, è una vicenda assolutamente privata, non ha niente a che fare con i politici dell'epoca, perché Berlusconi non lo era all'epoca, e così mi preoccupa il fatto che nel paese molti si identifichino nella posizione di Berlusconi e quindi ne prendano difese trattandolo come politico, ma non come imprenditore che si è mosso in maniera così illegale all'epoca. Ecco, volevo anche sentire lei cosa ne pensava. Più o meno penso la stessa cosa, è una vicenda molto complessa, qualcuno parla di un timing, insomma che la sentenza sia arrivata in realtà in questo momento, io non lo so, non credo, oggi ho sentito un parere di Giuliano Pisapia, che per carità è stato anche avvocato di una delle parti della CIR, che dice che addirittura il risarcimento è congruo. È difficile farsi un'idea precisa di tutta la vicenda, certo trasformarla in una questione politica mi sembra improprio, questo lo posso dire. Roberto da Cagliari, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo intervenire su Lodo Alfano, ma non posso assolutamente prima fare un commento su quello che ha detto Brass. Dico, a questo punto bisognerebbe indagare se la ragazza aveva i jeans, perché se avesse avuto i jeans Bonaschi sarebbe assolutamente innocente. Dico, è pazzesco, una ragazza di 13 anni. Non è che se uno è un genio, ha studiato, è una persona intelligente, vanta dei crediti, per cui Polanski, siccome è una persona di grande successo, può, diciamo, abusare di una tredicenne. Questo per quanto riguarda il signor Brass, insomma, mi rimerei da commenti del tipo di quelli che ha fatto lui, insomma, proprio mi sembra fuori luogo. Per quanto riguarda il Lodo Alfano e il Lodo Mondadori, sentire il PDL che dice andremo in piazza, insomma, sarebbe come se io andassi a abitare al piano superiore del suo, lasciassi il rubinetto aperto, le allago l'appartamento, poi dopodiché mi candido, lei mi fa causa e sospendiamo la causa per un fatto assolutamente privato, perché io sono diventato un uomo politico, è pazzesco. Cioè, vabbè, lei però, mi scusi Roberto, in questo caso sta entrando nel merito del Lodo Alfano, cioè sta dicendo che secondo lei non è costituzionale. No, io sto dicendo che per quanto riguarda i reati commessi dal Presidente del Consiglio, che sono precedenti alla sua entrata in politica, perché la questione Mondadori, la corruzione del giudice, è precedente al fatto che Berlusconi fosse in politica, e allora dico, questo non possiamo bloccare il lavoro, no, i lavori, scusi, della Camera. Però sul lodo Mondadori non c'entra assolutamente nulla il Lodo Alfano, cioè le due cose non vanno insieme. Berlusconi sulla vicenda Mondadori credo che addirittura scendere in piazza per una sentenza di un tribunale civile. No, ma Roberto, su questo sono d'accordo con lei. Io sono un po' evangelico nelle mie cose. Ho saputo dal capogruppo del Partito Democratico che mi voleva espellere. E io, Vangelo che dice, se uno non è gradito in casa, uno sbatte la polvere sotto i sandali e va via. E così faccio io. La furbata di Antonio Gaglione, il deputato con il papillon, ci ha detto che ne ha di diversi colori, il quale prima di essere espulso lo sarebbe stato sicuramente dal gruppo del Partito Democratico. Anche su questo bisogna dire che c'è una grande ipocrisia, perché magari prima di mettersi dovrebbe essere in teoria quello che deve controllare le presenze e le assenze, ma lasciamo perdere. Se n'è andato dal gruppo del Partito Democratico aderendo al gruppo misto. Ma c'è un'altra questione al di là di Gaglione, che è diventato questa sera il nostro numero uno assoluto, perché con sincerità ha detto era un convegno di cardiologi eccetera, il Parlamento è un lavoro frustrante, tanto gli elettori non sono loro che decidono, ma i capi partito, i capi bastone. In questo modo si è espresso ai nostri microfoni. C'è una questione più seria che investe un deputato, l'onorevole Ileana Argentin del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a lei. Eccoci qui. La sentiamo bene? Sì, alziamo un attimo. Allora, lei ha denunciato una cosa molto grave, perché naturalmente... qui non è questione di essere presenti, non presenti, la discussione politica intorno alla presenza o meno dei deputati dell'opposizione, che ci può anche stare. Ma lei ha denunciato un'aggressione nei suoi confronti. Cosa è successo? Ci racconti bene quando è successo? Guardi, io ho subito un'aggressione sia di tipo verbale che di tipo fisica. Io sono, diciamo, il deputato disabile, per farmi riconoscere. Sì, io non l'ho detto perché mi dà fastidio specificare sempre questa cosa. Lei è un deputato, punto. Dunque non l'ho. Però se no non si può capire. No, certo. Se lei ci deve spiegare la cosa, è meglio che lo dica. Guardi, diciamo che venerdì c'è stata la votazione. Io giovedì mattina ho consegnato un certificato medico perché non stavo bene. E quindi sono stata assente dall'aula sia giovedì che venerdì. Sì. Dopodiché è successo il pasticcio del voto mancato. Sì. Che cosa è successo? Che il giorno dopo c'era una manifestazione sulla libertà di stampa. Io sono andata lì con la macchina ed essendo disabile mi sono avvicinata con la macchina molto a Piazza del Popolo. Sì. Dai calcoli che appena io mi sono fermata, sono scesa, ho fatto un giro... poi ho visto che era impossibile, insomma, proprio stare in piazza per quanti eravamo, sono risalita in macchina e la gente ha cominciato a gridarmi: vergogna, dovevi stare in aula, potevi prendere un'aspirina, tu sei una vergogna, se fosse, sei handicappata, fai l'handicappata. E poi di... Scusi un attimo, onorevole Argentina, lei dice la gente, un gruppo nutrito di persone, chi erano in particolare? Erano delle donne e degli uomini, le dico che a un certo punto le donne si sono levate le scarpe e con scarpe, anche col tacco, ci sbattevano sopra la macchina, sopra ai finestrini. Ci prendevano a calci con la macchina. Ma avevano delle insegne di partito? Erano persone riconoscibili da questo punto di vista o cittadini che erano lì alla manifestazione? Assolutamente, cittadinanza potrei definirla. Sì. Secondo me estremista, però cittadinanza. No, beh, estremista non c'è dubbio, ma insomma non erano riconoscibili, insomma, come no, appartenenti guardi, ad un... posso dire che una di queste signore era bionda, aveva i capelli lisci e gli occhiali azzurri, però ecco, più di questo... E poi che è successo dopo che hanno cominciato a sbattere le scarpe sulla macchina? Chiaramente io ero col mio compagno e con una parte, diciamo, del mio comitato elettorale, hanno cominciato a prendersi a male parole, poi abbiamo calmato la situazione e insomma le dico, questa grande avventura è finita lì, siamo riusciti ad andare via con la macchina, questi gridavano, ci tiravano roba eccetera, però abbiamo fatto finta di nulla perché... In quel casino, lei si immagini se noi rispondevamo che poteva succedere. No, certo, la cosa poi da... Ma non mancava un poliziotto, non c'era un poliziotto, non c'era un vigile, ce n'erano soltanto due nascosti perché credo che ci sia lo sciopero bianco dei vigili, non so. Vabbè, che ma voi avete avuto paura di un qualcosa di più serio in quel... Ma io ho pensato a un linciaggio, può chiedere a chiunque dei miei colleghi, io sono una tostissima che non ha mai paura. Però lì ho avuto veramente paura. Ma il dramma vero è successo ieri sera, che uscendo dal comitato elettorale ero vicino a Piazza Venezia, sempre col mio compagno e con due colleghi col quale lavoro per la mozione Marino. A un certo punto camminavo vicino ai negozi di Piazza Venezia e ho chiesto al mio compagno, dico, facciamoci una passeggiata, erano 8:30, 9:00. Sì. La chiusura dei negozi, non gli so dire precisamente cos'è, e ci si sono avvicinati tre ragazzotti dai 28 ai 30 anni, insomma quell'età potevano avere, hanno cominciato a prendermi a calci sulle carrozzine, a dirmi che era una ruba, insomma che rubavo il pane a tradimento, che la gente aveva creduto in me, mi aveva votato e che io dovevo essere in aula perché lo scudo fiscale era un impegno per il quale io non dovevo fare a meno, e io continuavo a dirgli, guardate, stavo male, te prendevi quello che serve, ma ci devi andare, perché io per colpa tua adesso, io non pago il mutuo, io non ci voglio più credere alla sinistra. Quindi un film di questo tipo, calci che non finivano, ovviamente chi mi era accanto è intervenuto, sono usciti i negozianti e sono scappati. Ecco, tutto questo, onorevole Argentina, lei come la inquadra? Forse lei è più riconoscibile per la sua disabilità rispetto... Assolutamente sì. Lei pensa che sia questa la cosa, soprattutto? Guardi, io anche durante la manifestazione sentivo che tutti dicevano, eccola l'Argentina, eccola. Poi io in questo momento sono molto sui manifesti, perché chiaramente sono in campagna elettorale. Per la mozione Marino della segreteria? Regionale dell'app. Senta, però, onorevole Argentin, lei ha esibito dei certificati medici. A me sembra anche assurdo che uno poi debba ricorrere a queste cose. Sì. Vabbè, insomma, dunque, non sarà tra quelle processate, tra virgolette, dal gruppo, mi pare di capire. Ma io voglio essere processata perché non ho proprio da nascondere nulla. Io credo che la vergogna vera sia un'altra, cioè che la gente è assolutamente disperata e che ancora una volta si è fatta una campagna stampa che devo dire anche i nostri responsabili di partito non hanno saputo come dire gestire, cioè lì andava fatta non la caccia alle streghe ma andava gestita dando delle motivazioni serie e vere, cioè non dovevano fare di tutta la buon fascio. No, ma su questo non c'è dubbio. Lei davvero non poteva quei due giorni essere presente. Glielo chiedo non per fare l'inquisizione, sì, ma... Non potevo. Guardi, altri miei colleghi addirittura erano in sala di rianimazione. Per cui io mi prendo l'onere di dire questo, ma anche l'onore di dire che io ho circa l'88% delle presenze in aula. Insomma, non è come Gaglione che ha il 90% di assenze, no, che si è dimesso. Gaglione, laggiù. Secondo me, hanno trovato il pretesto, poraccio. Poi alla fine, voglio dire, è anche uno che fa poco, però è pur vero che proprio fanno carnifiche in questo momento, non mi sembra corretto. Vabbè, è anche vero, onorevole Argentin, lei aveva le sue giustificazioni, eccetera, eccetera. No, non ce l'aveva proprio. Beh, insomma, lui era al convegno dei cardiologi pugliesi, dove faceva il moderatore. Mi è sembrato piuttosto disinteressato al lavoro in generale da parlamentare, soprattutto alla vicenda dello scudo fiscale. Sa che ci ha detto, bah sì, tanto erano 100 di maggioranza, prima o poi sarebbe passato. Questa mi sembra la giustificazione più assurda. No, vabbè, questo è un inizio, per carità, una persona che si esprime così ha da una responsabilità come quella che abbiamo noi deputati, è un po' inizio. Senta, chi può essere... come dire, chi possono essere questi aggressori? Lei come, che cosa ha pensato? Gente del suo partito? No. Ho pensato alla gente comune, le dico francamente, e invece che ieri sera ho pensato a quelli di Rifondazione. O comunque dei centri sociali, ho visti molto estremisti nei modi. Però non voglio mettere l'etichetta a nessuno. Anche perché quelle di Rifondazione, che significa? Iscritti, simpatizzanti, poi insomma. No, Rifondazione per dire la parte più estrema di sinistra, tra virgolette. Ah, dunque potrebbe anche non essere Rifondazione, naturalmente. No. Va bene, onorevole Argentin, non dovrebbe accadere queste cose, perché non perché lei è disabile, ma in generale, insomma, aggressioni, certo, perché uno non è presente in Parlamento. Uno può essere arrabbiato, il cittadino può essere indignato, arrabbiato per queste assenze, sì, eccetera, però insomma la violenza... non ci sta, come è logico che sia. La ringrazio molto, buona serata. Grazie a voi. Dove andiamo? Andiamo a Paolo, Verona, eccoci qui. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Volevo puntualizzare un attimo un discorso per quanto riguarda questi parlamentari. A mio modo di vedere, il fatto che il Parlamento sia composto da oltre 1000 persone li induce in qualche modo a essere deresponsabilizzati, un po' come diceva l'onorevole prima. In un certo modo, secondo me, ha ragione Berlusconi quando dice che il Parlamento dovrebbe essere composto da molte meno persone, e che di fatto sono quelle che lavorano. Se il Parlamento fosse composto da un centinaio di persone, queste saprebbero che il loro voto è determinante, è importante, e sarebbero motivati ad andare, non andare, ma in ogni caso a giustificare la loro presenza. Sì, Paolo, lei ha perfettamente ragione, manca però la seconda parte. Berlusconi, e non è il solo, è uno di quelli che dice che il Parlamento andrebbe asciugato, però dove sono questi progetti di legge, dove sono questi progetti di riforma per cambiare questa situazione? Senz'altro io sono d'accordo con lei, il fatto è che se ne parla in campagna elettorale, o forse neanche, bravo, se ne parla a spot e poi finisce lì, però di fatto dobbiamo prendere atto, questi parlamentari, io ne ho frequentato anche qualcuno per lavoro, perché in hotel ne trovavo. Sono troppi e sanno o hanno la sensazione di non contare, il loro voto spesso non è determinante. Va bene, Paolo, la ringrazio. Posso dire un'altra breve cosa sulla libertà di stampa, o meglio su quello che dica velocemente. Ultimamente. Io vedo che se ne parla a colpi di cifre. Sentivo l'altra sera il parlamentare dell'Italia dei Valori che diceva che solo lo 0,8% dei telegiornali li ha visti presenti. Questa cosa fa francamente sorridere. Il fatto che si misuri la quantità di presenza nei telegiornali piuttosto che sui contenuti, su quello che dicono, il fatto che di fronte a ogni notizia ci siano 10 correnti, 10 partite che debbano commentare, io non so cosa aggiunga al movimento elettorale, come possa spostare. Qualcuno dice che invece, siccome la maggior parte degli italiani guarda il TG1, è lì che si formano le opinioni. Io continuo ad avere molti dubbi. Andiamo a dare un'occhiata dopo un sacco di tempo a 8:30, che ha un titolo: Berlusconi e i complotti. E si parla, ha il dovere, ma soprattutto ne ha di quello che sostengono alcuni politici, cioè dire appunto, qualcuno che vuole, che trama presuppone che dietro chi è stato eletto per governare, governi queste vicende, non rincorra trama per far cadere Berlusconi. Buonasera Stefano Folli, editorialista del Corriere, sì, del Corriere del Sole 24 Ore, che anche questa sera ci aiuterà a decrittare i misteri della politica italiana. Senti Stefano, siamo nel regno della nevrosi, come tu hai scritto oggi in un editoriale, o stavolta bisogna preoccuparsi davvero per la tenuta del sistema politico istituzionale? Ma che ci sia una nevrosi eccessiva anche per i nostri standard, noi siamo abituati a un clima di conflittualità permanente, è vero, effettivamente anch'io mi stupisco un po' quando sento adombrare ipotesi addirittura eversive. Le ipotesi eversive, dove andiamo? Per una maggioranza molto ampia, giustamente. Titoli del TG2, poi torniamo da voi. Slitta domani la sentenza della Corte Costituzionale sul lodo Alfano. Gli avvocati del Premier: non è immunità, ma tutela del diritto della difesa. Bertolaso parla al Senato e fa il bilancio della tragedia di Messina. 25 morti e 10 dispersi. Nessuna speranza di ritrovarli in vita, dice. Le colpe sono sempre dell'uomo. Al TG2 racconto di chi ha parlato per l'ultima volta con Simone, l'eroe di Giampilieri, che prima di essere travolto dal fango ha salvato 9 persone. A Colleferro, vicino a Roma, gli operai protestano per la chiusura della Alstom e circondano la fabbrica, ma i manager dicono: non siamo sotto sequestro, e poco fa uno è uscito. Sarà Topo Gigio, il topo più famoso d'Italia, il testimonial d'eccezione. Va bene, andiamo subito a sentire gli ascoltatori, andiamo a Giovanni da Bologna, eccoci qui. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Niente, io volevo chiedere, mio figlio mi ha chiesto, 8 anni e mezzo, mi ha chiesto, papà, il giornale, il radiogiornale, la Zanzara, lo scudo fiscale, cioè io che cosa gli devo dire a mio figlio? Cioè, mi scusi un attimo, ci Giovanni, cosa le ha chiesto suo figlio di 8 anni? Ha ascoltato lo scudo fiscale. Ha chiesto che cos'è babbo lo scudo fiscale, sì. Cioè io gli devo spiegare che ci stanno delle regole che possono essere trasgredite, delle regole che non bisognano essere trasgredite. Cosa rispondere? Quando poi vedo un ministro, quando succede qualche cosa di bullismo, viene a fare la morale da porta a porta e dire non li educhiamo bene, cioè, ma che esempio gli dobbiamo dare ai nostri bambini? Giovanni, uno la può pensare come vuole naturalmente sullo scudo fiscale, però lo sa quello che non mi piace? Mettere in mezzo i figli, i bambini, i minori, no, i figli molto piccoli. Io ascolto la Zanzara in macchina quando torno, a volte c'è anche lui in macchina con no, me. No, ma per carità, va benissimo. Giornale, cioè io gli devo dare una risposta a un bambino di 8 anni e mezzo che inizia a capire. Vabbè, lei può spiegare che ci sono diverse opinioni sullo scudo fiscale, che lo scudo fiscale è stato fatto per questo e quest'altro. Gli può dare tranquillamente delle spiegazioni o no? Sì, però per me è così. Ci senza sono delle regole, senza dire rispettarle. Sì, ma su questo non c'è il minimo dubbio, Giovanni, però questo è un ragionamento alla palissiano. Cioè, lei mi dice: ho difficoltà a spiegare che i ladri vengono premiati e gli onesti vengono bastonati? Ma questo lo capirà sicuramente, cioè, con l'esperienza che farà, questo lo proverà sulle sue spalle, questo è indubbio. E poi volevo fare l'ultima domanda, che sempre più ho chiamato qualche anno fa, un anno fa, che c'era ancora il governo Prodi, delle slot machine. Cioè io sinceramente non riesco neanche più da Beppe Grillo a sapere come andrà a finire quella storia. Se lei sapesse qualcosa, se mi saprebbe dare qualche risposta in merito. Non lo so, non ricordo come è andata a finire, cioè, ricordo la vicenda, non so come è andata a finire, se è finita, non credo che sia finita, siamo ancora in fase di indagine, credo, non lo so, ma non l'ho seguita quella vicenda in maniera approfondita. La ringrazio. Giulio da Milano, buonasera. Buonasera, volevo fare un intervento riguardo la libertà di stampa in Italia. Secondo me, cioè, chi dice che manca, cioè, vive in un mondo proprio tutto suo, cioè è proprio un alienato, perché basta andare. Giulio, la sento male. Gianrico da Genova, buonasera. Buonasera, sei pronto? Dica. Volevo fare una considerazione, ma che a me sembra banale, ma nessuno la fa. A proposito adesso di questa conflittualità permanente di cui parlava anche Fondi, in effetti ogni giorno ne succede una. Detto che la conflittualità fa parte della politica, non è che sia una cosa... Sì, sì, ma questa conflittualità è eccessiva, no? Diciamo ogni giorno ne abbiamo una, oggi abbiamo lo D'Alfano, ieri avevamo i giudici che hanno detto che Berlusconi è corrotto, ha corrotto, la settimana scorsa parlavamo di Santoro, delle escort, ma dico, abbiamo votato il centrodestra a stragrande maggioranza, abbiamo altri ottimi politici nel centrodestra, abbiamo Fini, abbiamo Tremonti, io penso a Nixon, un grande presidente americano che per molto meno si dimise. Ma perché Berlusconi non si dimette e fa salire un altro? La politica del governo non credo che cambierebbe molto. Gianrico, c'è un piccolo particolare in tutto questo. Primo, che Berlusconi non si vuole dimettere perché, come sai, è una persona molto testarda e pensa di poter restare altri anni, al di là delle valutazioni che si possono fare. Secondo, in Italia, anche se non formalmente, esiste praticamente l'elezione diretta del Premier, diciamo, non è scritto sulla scheda, non è l'elezione diretta del Premier, però è sostanzialmente così. Ora, lei si rende conto che l'unica strada realistica, se dovesse cadere il governo, eccetera, è quella di votare o no? Cioè, voglio dire, quando è stato votato, faccio l'esempio di Nixon, quando è stato votato Nixon, tutti gli americani hanno votato per Nixon. È un altro sistema, però, Gianrico, lei sta parlando di un'elezione diretta del Presidente. Il Presidente della Repubblica dice si è dimesso e c'è il vicepresidente che è subentrato. Questo voleva dire lei? Sì, là era subentrato un vicepresidente che neanche era stato eletto perché si era dimesso anche il vicepresidente, se ricorda, che era Spiro Agnew. Che... Poi è andato su chi era Ford, mi pare. Che non era stato neanche lei. Però Gianrico, il problema lì è che stiamo parlando di un sistema diverso, l'elezione diretta... Ma secondo me è più diverso. Cioè, voglio dire, il nostro permette di più questo meccanismo. Beh, lì è istituzionalizzata la cosa, cioè se il presidente per vari motivi si dimette, subentra il vicepresidente. Sì, però da noi invece è una repubblica parlamentare e viene individuato. Ora, a un certo momento Berlusconi si dimette, perché a questo punto non ne possiamo più ed è eletto. Vabbè, lì entriamo, Gianrico, entriamo nel campo delle valutazioni. Secondo lei si deve dimettere, vabbè, insomma, lei appartiene a quella... A quella parte di italiani che pensa che Berlusconi si debba dimettere, insomma, niente di nuovo sotto il sole, però. Come? Cioè, vuol dire niente di nuovo sotto il sole, lei fa parte di quella parte. Ma perché non so, voglio dire. Ho capito, ma non è così scontato, Gianrico, se lei lo dà per scontato, come non si può pensare una cosa di questo tipo? Non è così, evidentemente, no? Evidentemente c'è una parte di italiani che pensa invece che Berlusconi non si dovrebbe dimettere, e un'altra parte che pensa che si dovrebbe dimettere. E lei non deve dare per scontato che la sua sia la verità assoluta, o sbaglio? No, questa è la mia opinione, è logico. Ah, ecco, infatti di questo stiamo parlando. Certo. Logico. Dunque? Niente, basta, io ho finito. Grazie. Francesco da Roma. Dottor Cruciani, buonasera. Dica. Volevo fare due considerazioni su una cosa di cui non si è parlato, di Colleferro praticamente. Ed esattamente la prima è sulla libertà di stampa. Ne abbiamo sentito fino adesso, almeno assieme a lei, tre telegiornali, Rai, Italia 1, TG2 e TG3, Italia 1 ha parlato di sequestro, il TG2 ha detto non è successo quasi nulla, il TG3 proprio non si è preoccupato di dire quello che stava succedendo all'interno della fabbrica. Domani sui giornali sicuramente avremo mille possibilità di scelta di dire quello che sta succedendo, credo ancora adesso dentro. Beh, i manager dell'Aston per esempio hanno detto che non sono stati sequestrati, da quello che apprendo dalle agenzie di stampa. Però non possono uscire, forse ne è uscito uno. La seconda considerazione è questa, proprio questa, sempre per Colleferro. Ma se io non posso o non faccio uscire da un edificio, da un palazzo, da una scuola, delle persone, ma vengo preso, vengo condannato, vengo comunque fermato, oppure tutto è lecito? No, guardi, la ringrazio. Francesco, no, non lo so, non le so rispondere. Probabilmente se uno... Là di solito dipende dalle situazioni, evidentemente se quelle persone sono trattenute con la forza e poi presentano una denuncia può succedere qualcosa, di solito queste situazioni vengono gestite in maniera pragmatica, cioè non si arriva ai tribunali, alle denunce eccetera, di solito, e comunque sono situazioni assolutamente nuove, diciamo, in Italia, rare anche per fortuna. Beh, della serie... fare questa cosa perché era una cosa che si era programmata da tanto tempo, poi si è deciso all'ultimo momento di votare il venerdì mattina. Io lo dico senza ipocrisia che attualmente il lavoro in Parlamento si tratta di votare, si è un numero che bisogna votare come dicono i capi corrente e come dicono i segretari d'aula, e lei lo sa molto bene, credo. No, lo so, però lei è pagato anche per quello, per stare in Parlamento. Siamo d'accordo, no, io sono pagato per fare il parlamentare. Anche per, e dunque stare in Parlamento, lei ha assenze del 90%. È uno dei compiti del parlamentare, ma non il solo. Se ritengo che sia più importante dedicarmi al territorio, dedicarmi ai cittadini e fare delle battaglie e non in Parlamento dove si deve votare, e soprattutto in questo momento in cui c'è una maggioranza di 100 persone che disoverchia, il tuo voto non conta niente. Questo è Gaglione, per il quale, scusate per l'interruzione iniziale, è più importante andare a un convegno sulla cardiologia pugliese, sulla storia della cardiologia pugliese, piuttosto che stare in Parlamento a votare. Va bene, 20:47, stavo dicendo, della sera non ci posso credere, c'è un'intervista che uscirà sul prossimo numero di Vanity Fair a Sabrina Began, una di quelle impelagate in questa vicenda di escort di Berlusconi, che dice la sua, non vi dico nemmeno cosa dice, però... ha un tatuaggio su un piede. Indovinate cosa si è fatta tatuare sul piede? No, ma è incredibile, non ci posso credere. Le iniziali SB, Silvio Berlusconi. E dice, ma molti si fanno tatuare il Che Guevara sul braccio, per me è la stessa cosa. Stefano da Bari, buonasera. Senta, io volevo intervenire, se è possibile, sulla questione del lodo Alfano. Sì. Allora, quello che voglio dire io è questo qua. Il lodo Alfano, da quello che ho capito, non è altro che la sospensione di tutti i procedimenti penali che sono in corso per le quattro cariche dello Stato. La sospensione, sì. La sospensione. Quindi questo non vuol dire che verranno assolti. Vuol dire che fra 4 anni, quando finirà il mandato del presidente Berlusconi, riprenderanno i processi. Allora, la questione che mi dico io, che mi chiedo, ma perché siamo così disfattisti? Se Berlusconi dovesse andare a processo, dovesse essere condannato, cadrebbe il governo? E con tutti i casini che ci sono attualmente in Italia, tra il terremoto, il disastro che è successo a Messina, la crisi economica, cioè non ci sono, almeno come la vedo io, non c'è una persona al momento in grado, non, nella destra no, figuriamoci nella sinistra, che può prendere il posto di quello che abbiamo ora. Allora dico, facciamogli fare il lavoro suo. Tanto 4 anni passeranno, una volta passati questi quattro anni si può prendere e processare. Però lasciare ora nei guai quella gente che sta in Abruzzo, perché se cade il governo si blocca tutto, sì, ed è un peccato. Stefano, io posso anche essere d'accordo con lei sul fatto che per la situazione che si è venuta a creare in Italia, per i rapporti che ci sono tra la politica e la giustizia, e questa posizione che ho espresso è la stessa più o meno di un quotidiano certamente non accusabile di berlusconismo come Il Riformista, e dunque sono convinto della necessità di un lodo Alfano. Però siccome le cose poi dal punto di vista giuridico sono delicate, è vero che nelle decisioni della Corte Costituzionale sicuramente conteranno molto le questioni della sensibilità politica dei singoli giudici, su questo non ci nascondiamo, non è che sono solo decisioni in punta di diritto, le decisioni in punta di diritto sono decisioni che riflettono sempre una certa sensibilità, perché comunque c'è una possibilità di scelta. Però non ci possiamo mettere a contestare anche le decisioni della Corte Costituzionale, altrimenti cade tutto l'architrave, insomma. La ringrazio. Fabio, provincia di Venezia, buonasera. Buonasera, dottore. Io ho sentito vari interventi questa sera, vorrei intervenire su tutti, però quello che mi ha fatto scattare la molla è stato quello di Tinto Brass. Tinto Brass dice una bambina di 14 anni, perché è una bambina, una ragazzina, chiamiamola, non so, chiamatela come volete, è in grado di gestire praticamente la propria sessualità. Ma questo non sono assolutamente d'accordo. Forse secondo la filosofia di Tinto Brass, forse sua sorella avrà questo modo di pensare. Io ho una figlia di 14 anni, posso pensare che un adulto la possa in qualche maniera che so, influenzare per raggiungere un obiettivo. Quindi Tito Brass, lui vive di queste cose perché è un regista, fa i film, Culi, Tette, tutte quelle robe là, l'abbiamo sentito cosa ci ha detto in diretta, no? No, non accetto, non è giusto che una persona abbia modo di esprimersi così alla radio con tante persone che possono ascoltare, non è giusto dargli questo spazio. Tinto Brass. Fabio, io lo spazio gliel'ho dato, naturalmente non posso prevedere quello che dice Tinto Brass, perché è una opinione controcorrente rispetto a quelle che abbiamo ascoltato sulla vicenda di Polanski. Dopodiché, quando ha cominciato a utilizzare certe frasi, l'ho fermato. Mi sembra abbastanza, o mi vuole accusare anche del solo fatto di aver invitato Tinto Brass? No, no, io non la voglio accusare, anzi io la devo solo ringraziare, perché la sua trasmissione spazia in tutti i campi e quindi tutte le fanno i complimenti, io pure. Non è quello il problema è che se uno ha la propria bottega non deve usare la radio per diciamo proteggere i propri interessi, perché lui fa quel settore lì. E allora Tinto Brass vende i film pornografici o pseudo pornografici. Sì, ho capito. E quindi una ragazza di 14 anni, no, qui stiamo parlando di cose delicate, cioè le ragazzine di oggi già sono soggette a molteplici influenze, non possiamo dire queste cose, bisogna controbattere una cosa del genere, non è possibile. Non sono assolutamente d'accordo, la trovo una cosa un po'... Insomma, è anche un mio compaesano, tra l'altro, ma non sono assolutamente d'accordo. Tinto Brass mi fa un po' schifo, diciamo, come la Russia faceva, la Russia faceva schifo. Odi Freddi, per dire. Odi Freddi, sì. Molto chiaro, la ringrazio. Fabio Pietro Ascoli Piceno, qualcuno mi ha scritto, guardi che l'età del consenso è fissata a 14 anni, dunque non è una discussione del tutto campatinale quella di Tinto Brass, quando non c'è violenza. Sì, d'accordo, ma qui siamo in presenza di un processo e di descrizioni di quel processo riportate dai giornali americani in questi giorni piuttosto crude. Dopodiché ognuno può giudicare. Pietro, prego. Buonasera Giuseppe. Ascolti, questa sera abbiamo parlato di cose molto serie, il lodo, lo scudo fiscale, Polanski, ma forse abbiamo dimenticato una delle cose più serie, cioè che Topo Gigio ci informerà sull'influenza A. Questa è una cosa. La comunicazione scelta dal Ministero della Salute. La comunicazione istituzionale del nostro governo su una malattia che avrebbe dovuto e dovrebbe fare milioni di morti, la nuova spagnola, chi ci informerà? Topo Gigio. Vabbè, d'accordo, quella è la comunicazione. No, mi permetta la battuta. Va bene Pietro, grazie. Angelo provincia di Modena, ma stiamo per chiudere, dunque brevità. Sì, sarò brevissimo, grazie. Io volevo un attimo riportare la realtà sul discorso delle assenze alla votazione dello scudo fiscale. Chiunque, qualunque deputato può dirvi che la tecnica del Parlamento di oggi è vedere quanti sono nell'opposizione e far restare in aula 15 in più di quelli che servono per far passare i voti. Se per assurdo, so quanti erano quelli del PD, cioè dell'opposizione erano 250 e loro erano 270, se per assurdo quelli dell'opposizione fossero stati 160, che è il minimo forse per avere il numero legale, loro sarebbero stati 180, cioè mandavano a casa altri 80 dei loro. Cioè, non lo so, non è detto questo qua. Comunque è meglio esserci piuttosto che non esserci, eh? È meglio correre il rischio, o sbaglio? Come dice, scusa? No, è meglio esserci in ogni caso, al di là di questi contesti. Sì, sono sicuro di sì. E fra l'altro sono anche convinto, a dire la verità, che il 90% delle presenze del gruppo del PD non è poi neanche così. Cioè, voglio dire, in quella votazione erano presenti il 90% dei sì, no, ma su questo non c'è dubbio, però è bastata evidentemente quella piccola percentuale per provocare il cortocircuito di cui abbiamo parlato. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.